tu per me sei come una melodia e non sei quanto vorrei tu fossi mia, ma io non sono che un pagliaccio e tu invece sei una dea con quegli occhi come il mare che io mi ci tufferei. Eccomi qui, io non posso dirti niente, sai, so solo far battute per far ridere la gente, mentre tu sei così bella, sei come un quadro di Gauguin, ma se solo tu volessi cosa fare io saprei, io ti amerei. Riempirei di luce ogni momento buio tuo e poi riaprirei le porte di questo cuore mio e ti farei volare sulle ali della fantasia, fantasia, fantasia, eccomi qui a parlare d'amore con tutta la follia di quest'uomo a colori che ha girato e rigirato tra mille mondi da esplorare e ha trovato nel tuo cuore una meta da conquistare e per prenderti un sorriso, sai, si maschera da clown, ma se guardi dietro il trucco vedrai quanto amore c'è, c'è, c'è, c'è. Io vorrei tenerti tra le braccia strette a me e cullare i sogni tuoi e farli diventare anche i miei e addormentarmi e risvegliarmi nello sguardo tuo e sentirti il cuore che batte contro il mio.